e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Parte una nuova settimana che noi inauguriamo, cari amici, a Tutto Food. Direi. Infatti. Piatto ricco, mici ficco. Esatto. È un'esposizione internazionale per gli operatori del settore agroalimentare che è nata nel 2007 e organizzato ogni due anni da Fiera Milano. Se siete nei paraggi, o in ogni caso venite apposta per noi, ci trovate al padiglione 2, stand T12-T14. Se non fate in tempo stamattina, ci siamo anche domani, per cui prendete nota delle coordinate. Non è una battaglia navale, è una battaglia alimentare. Allora, Nicoletta, 2850 espositori, di cui 500 stranieri, 2000 buyer che provengono da tutto il mondo, Stati Uniti, Europa, Messico e Brasile, pronti a comprare tutto il meglio del Made in Italy agroalimentare. Hanno buon gusto. Ottimo. Chissà se passerà pure Barack Obama, che arriva oggi. Lo sai che tiene questa conferenza, sì, con tutto il gran dibattito che c'è per, come dire, l'onere finanziario per partecipare alla sua conferenza. Mi piacerebbe incontrarlo. Ce l'hai 850 euro? Ci facciamo questi investimenti? Potremmo fare una colletta. Ci fa lo sconto. Detto questo, chissà che cosa mangerà in questi giorni, perché ricordiamo quale sia stata il grande cavallo di battaglia di Michelle Obama, la lotta al junk food, quindi ad un corretto stile alimentare, soprattutto rivolto ai bambini americani. Di cui noi parleremo. Esatto. Allora, in attesa di avvistarlo, noi vogliamo segnalarvi anche un'altra grande novità di questa edizione, che è il fuori salone di Tutto Food. In pratica, un po' come succede al Salone del Mobile, tutta la città sarà coinvolta in iniziative, dibattiti, show cooking, tutti naturalmente all'insegna del buon cibo. Deborah, Milano Food City, si presenta. Esatto, uscite da qua, noi andiamo direttamente al fuori salone, non torniamo in radio, che dici, oggi pomeriggio? Ma noi siamo molto interessati, perché fra i vari appuntamenti in calendario, Tutto Food ospiterà anche nel centro congressi progettato da Fuxas Spazio Nutrizione. È il principale evento riservato alla discussione scientifica sui temi dell'alimentazione, che proprio punta ad aiutare gli operatori a offrire prodotti in linea con i trend di consumo, ma allo stesso tempo salutari a livello nutrizionale. Noi abbiamo qui in studio un grande onore, abbiamo con noi il professor Michele Carruba, che è direttore del Centro Studi e Ricerca sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano, e anche, buongiorno intanto professor Carruba, direi anima di Spazio Nutrizione. Ci accompagna oggi anche il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo che gli ascoltatori di Cuore Denari conoscono bene. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati tutti, è un onore essere qua con voi oggi. Allora, professor Carruba, parto subito da lei, perché so che è preso in tanti appuntamenti ed eventi, è un po' il padrone di casa di Spazio Nutrizione, deve coordinare tanti incontri e tanti eventi. Il food, letteralmente, il cibo e quindi in senso lato l'alimentazione, professore, sono temi di grande attualità e di grande moda. Ma non solo, lo sappiamo che il cibo è soprattutto una questione o un'occasione di salute e di benessere. La ricerca a distanza di tempo, insomma, professore, conferma quello che in tempi non sospetti già Ippocrate suggeriva, e cioè fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. Professor Carruba, tanti eventi a Spazio Nutrizione che guardano dal punto di vista, con l'occhio della ricerca, le nuove tendenze di cui si stanno occupando medici e ricercatori in tema di alimentazione. Ci vuole dare un'anticipazione? Assolutamente sì, innanzitutto vorrei sottolineare come in un'occasione di questo genere, dove si parla di cibo a 360 gradi, finalmente è presente la scienza, perché la scienza, quindi Spazio Nutrizione, ha organizzato questo convegno scientifico, ma ha anche organizzato tutti gli eventi di Fuori Salone. E a questo hanno partecipato ben 6 università milanesi. Quindi il compito della scienza è quello di osservare i fenomeni, capirne i meccanismi che li governano e studiarne l'evoluzione in modo da potersi preparare. Certo. Ecco, nel campo dell'alimentazione c'è una grande rivoluzione. E anche molta confusione. Appunto, non... ecco. Come lo puntualizza con forza. Ecco, perché gli servo un piatto che gli... un assist. Un assist, perché, molto gradito. Perché ovviamente se c'è una cosa che tutti hanno capito è che mangiar bene significa salute, mangiar male significa malattia. Okay. Questo l'hanno capito tutti, però se lei chiede a chiunque per strada, ma lei mangia bene, loro sono convinti di mangiar bene. Se invece fa un'anamnesi, come chiamiamo noi, cioè studia che cosa effettivamente mangiano, scopre che stanno sbagliando quasi tutto. Allora oggi dobbiamo passare, dobbiamo fare questo salto, passare dalla sensibilizzazione della popolazione alla educazione della popolazione, perché tutti vorrebbero mangiare sano, ma nessuno sa come si fa. Perché? Perché abbiamo perso le nostre tradizioni alimentari, la dieta mediterranea. Nel campo della globalizzazione sono arrivate le pubblicità che ci spingono a scelte, perché la pubblicità è fatta proprio per farti scegliere una cosa piuttosto che un'altra, ma ovviamente la pubblicità non ti spinge verso un cibo sano, ti spinge verso quello che conviene a chi lo produce. Certo. E poi c'è anche l'informazione. Oggi purtroppo la scienza dell'alimentazione, che dovrebbe essere la musa ispiratrice di tutto quello che si dice a proposito di scienza, soprattutto quando se ne parla in funzione della salute, che è un bene prezioso, è dare delle notizie false o non precise può portare a sbagli che hanno ricadute sulla popolazione in termini di salute, e costano salute, costano malattie, costano parecchio alla società. Allora, quello che vogliamo fare noi, e approfittando di questa occasione, è portare la scienza non tanto e non solo a contatto a un momento di discussione fra scienziati, ma anche coinvolgere i produttori, perché se oggi, io dico sempre, se oggi la gente chiede, cioè la legge di mercato è domanda e offerta, sì, se la popolazione comincia a chiedere cibi salutari, l'azienda deve rispondere. Deve rispondere, perché sennò è fuori mercato. Quindi noi portiamo, con il vostro evento, porta la salute e l'alimentazione nelle aziende, ma anche per farlo arrivare nel piatto degli italiani. Per farlo arrivare nel piatto degli italiani, e attraverso queste manifestazioni fuori salone cerchiamo di raggiungere direttamente, in maniera semplice, anche la popolazione, coinvolgendola. E soprattutto, professor Carruba, mi permetta, anche state sdoganando, e la vostra presenza è qua, l'idea che per mangiare bene ci si debba accontentare di un'alimentazione priva di appeal, di gusto. Si può mangiare bene dal punto di vista del gusto e promuovere la salute. Assolutamente. Professore, ci aiuti, perché questo, sì, lei parlava di sensibilizzazione e di educazione, un grande cavallo di battaglia di Cuore Denari. Noi facciamo investire informati e facciamo anche alimentarsi informati, proprio perché vogliamo far passare questo concetto. L'alimentazione è nutrimento e anche piacere ed è salute. Tutte queste caratteristiche possono essere assolutamente coniugate insieme. Deve essere piacere, perché è chiaro che se non è piacere, nessuno lo fa. Professore, tanti eventi, tanti temi che affronterete, alcuni che sono un po', devo dire, sulla bocca di tutti, perché tutti leggiamo i giornali, alcuni hanno un appeal per i media. Parlerete di microbiota, parlerete di probiotici, parlerete quali sono gli eventi su cui c'è maggiore attenzione e anche discussione nel campo scientifico. Allora, oggi affrontiamo due temi molto importanti. Uno è l'Health City. Health City significa le città della salute, perché oggi c'è un fenomeno incredibile. La popolazione si sta spostando dalle campagne verso la città, e tutto questo ovviamente crea tutta una serie di problemi di tipo logistico, ma soprattutto di problemi per la salute, perché la popolazione sta crescendo. Le strutture devono essere adeguate e bisogna in qualche modo cercare di fare un'operazione di cambio di paradigma. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che è aggressivo contro le malattie, ma è molto costoso aggredire una malattia. Oggi, se non ti funziona il cuore, te ne mettono un altro, ma cosa ti costa? Invece dobbiamo cercare di passare da un concetto di aggressività sulla malattia al concetto di prevenzione, fare in modo che le persone sane rimangano sane. E per fare questa operazione ci sono due cose a cui bisogna rivolgersi: l'alimentazione e l'attività fisica. E proprio di alimentazione e attività fisica continueremo a parlare oggi, proprio per cercare di profilare, ti piace questo termine? Mi piace tanto, lo sai. Uno stile alimentare cucito su misura dei nostri ascoltatori, che deve rispettare alcune caratteristiche in base all'età, alla nostra grado di attività, anche a quello che ci piace. Professor Carruba, noi domani con lei tornerà a trovarci, parleremo anche di obesità e di sovrappeso. Assolutamente. Quindi diamo appuntamento anche ai nostri ascoltatori domani col professor Carruba. Domani parleremo di obesità, perché l'obesità è il problema più importante, non lo dice Michele Carruba, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'umanità deve affrontare in questo secolo, soprattutto se non ce la facciamo in questo millennio, ma io spero che sia un secolo. E questo problema è un problema enorme, perché l'obesità è una malattia mortale e oggi nessuno la considera tale. È una malattia epidemica, perché il 50% degli italiani sono sovrappeso o obesi, e porta una serie di conseguenze che sono deleterie per la salute: dal diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori, sono tutti conseguenze dell'obesità. Allora, salite sulla bilancia, andate a prendere il centimetro, tornate con noi, restate adesso, ma tornate domani con il professor Carruba, che adesso lasciamo scappare via. Noi rimaniamo con il dottor Confalonieri, 800 24 00 24, il numero verde è naturalmente attivo anche da Tutto Food. Professor Carruba, a domani, buon convegno, a buon domani. Spazio nutrizione. Grazie. A presto. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi fa caldo, vero? Io sto bene. Sarà il professor Carruba che ci ha detto tutte queste cose qui, e noi ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, Cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa potevamo... Non potevamo iniziare da che bontà, siamo a Tutto Food, parliamo di cibo, di abitudini alimentari, di mode, di nuove tendenze, di salute. Il cibo infatti è tradizione, condivisione, piacere, convivialità, amicizia, relazione, ma anche e soprattutto benessere. Dottor Confalonieri, il timone passa a lei. Allora, l'abbiamo anticipato, il tema che vogliamo affrontare oggi è mangiare bene, scegliere la dieta adatta per il nostro tipo di vita in base alla nostra età e al nostro genere, a quello che vogliamo ottenere, ma anche in base ai nostri gusti. Dottor Confalonieri, di quali elementi ha bisogno dei nostri ascoltatori per confezionare uno stile alimentare adeguato che ci permetta di mangiare tutto senza rinunciare a quello che più ci piace, ma in un'ottica di benessere, di promuovere la salute? Noi puntiamo, come ha anticipato il professor Carruba, sulla prevenzione. Abbiamo quest'arma straordinaria, che è anche molto piacevole, perché non utilizzarla? Dottore. Eccoci. Intanto è un timone impegnativo, perché lo passa un nome di riferimento come il professor Carruba, quindi speriamo di essere degni del lancio che ha fatto. Ha detto fra l'altro una cosa fondamentale, ha detto il futuro sta nella prevenzione dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della qualità della vita, e la prevenzione passa anche e soprattutto attraverso l'esercizio fisico correttamente eseguito. Penso ci raggiungerà Maurizio Daminalo, che è un grande testimonial di questa cosa. Se volevamo tenerlo un po' nascosto, ecco. Ma questo qua, cioè, si prende adesso, delle libertà in diretta. Adesso vedrai che è nostro fratello. Perdonatemi. Dice anche i mercati. Vabbè, non lo dico fatto più. Bene, no, mi spiace. Ha fatto bene. Ce l'aveva. No. Troppi anni con voi, troppi anni. È vero. Come ci trova? In forma? Formissima, straordinaria. E dall'alimentazione. Ed è molto bello che, entrando oggi proprio qui a questa manifestazione di grandissimo rilievo, davvero impattante, lo slogan che si ritrova in più punti, che si ritrova sulla rivista della manifestazione, è proprio tailor-made. Questo concetto della individualità, che è un concetto base in teoria dell'allineamento e dell'alimentazione, finalmente comincia ad affermarsi anche in questi finalmente per me finalmente. Senta dottore, lei voleva concludere questo pensiero? Sì, concludo, così dopo rispondo alle sue domande, perché per fare qualcosa tailor made bisogna proprio sapere quali sono le caratteristiche di una persona, così come quando la si veste, per costruirgli un esercizio fisico e soprattutto in questo caso un'alimentazione su misura. Allora, che cosa devono dirci? Uomo, donna, allora, fascia d'età. Non andiamo proprio per il sottile, non devono proprio dirci il giorno e il mese in cui sono nate, però insomma... Tra i 40 e i 50. Innanzitutto, sesso è sicuramente importante. Se sono sedentari? L'età, se fanno attività fisica, ma soprattutto come è organizzata la loro giornata, quindi se lavorano, non lavorano, a che ora mangiano, se mangiano a casa, se mangiano fuori casa. Questo è fondamentale per costruire qualcosa su misura, e quali sono i loro gusti, perché il cibo è un elemento fondamentale per il benessere inteso a 360 gradi, è un meccanismo di compenso fondamentale, quindi noi dobbiamo riuscire a costruire delle diete, è una brutta parola, delle abitudini alimentari che rispettino determinati criteri scientifici, è ovvio, che rispettino la salute, ma soprattutto che rispettino il gusto, il vizio, passatemi la parola, e l'organizzazione della giornata di ciascuno. Questo è un aspetto fondamentale, perché in questo modo queste abitudini potremo portarle avanti nel tempo. Diventano stile di vita. Diventano stile di vita. 800 24 00 24, ci piace. C'è un Raffaele da Roma, sì, stavamo considerando che ci vuole proporre un taglio rispetto all'argomento che affrontiamo questa mattina, che a noi è molto caro perché condividiamo. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, sono Raffaele Ruocco, uno specialista in scienze dell'alimentazione. Volevo aggiungere alle parole dette anche dal professor Carruba, che oggi non è pensabile intervenire su questo problema, sul problema del sovrappeso dell'obesità, ma più in generale nel nostro rapporto con il cibo, con il corpo, senza tener conto dell'aspetto cognitivo, dell'aspetto psicologico. Quindi è molto importante anche, io spesso dico che bisogna iniziare a dimagrire leggendo, cioè informandosi e modificando un po' il nostro rapporto psicologico con l'alimentazione, ecco. È vero, Raffaele, è un problema non solo di pancia ma di testa, Raffaele? Assolutamente, non possiamo affrontare il problema da un punto di vista solo quantitativo o prescrittivo con le diete, perché è fallimentare. Io come medico lo continuo ad affermare, ma non è una mia idea, che l'approccio dietetico è l'approccio più fallimentare che abbiamo in medicina, e quindi bisogna un attimo fare il punto e modificare il nostro approccio a questo problema grande, ecco. Certo. Grazie Raffaele, continui a seguirci e a intervenire, perché quello che ci ha proposto Raffaele, ne abbiamo tante volte parlato insieme a lei, dottor Confalonieri, anche al dottor Erzegovesi, che si occupa proprio, le è piaciuto molto, molto Erzegovesi, molto. Perché mi aveva mandato un messaggio proprio per dire mi piace proprio l'approccio al comportamento alimentare. Spesso quando noi sappiamo che dobbiamo riprendere un po' in mano il nostro stile alimentare, siamo frenati dall'idea che tutto questo sia un cambiamento molto faticoso, che deve metterci davanti a tante rinunce e il nostro umore andrà giù. Non è così, può essere molto diverso da così, anzi può davvero regalarci un modo nuovo di sentire noi stessi, percepirci e soprattutto guardare e gustare la vita intorno. Solitamente, dottor Confalonieri, chi si mette a dieta dice sarò poi triste, no? Vede, infatti si inizia sempre il lunedì del poi e del mai. Sta così diffondendosi un nuovo modo di comunicare il cambiamento alimentare. Ecco. E lei è uno degli esponenti anche perché l'ha provato direttamente sulla sua pelle. Ecco, non deve assolutamente essere così. La suggestione del nostro ascoltatore, del collega, è estremamente importante e interessante. Noi dobbiamo conciliare la salute attraverso gli alimenti con la salute psicologica. È fondamentale considerare la persona nella sua globalità, qualcosa che nella tradizione occidentale è sempre mancata. Cioè si interviene sugli aspetti alimentari e non si considerano quelli psicologici. Sbagliatissimo. La persona va valutata nella sua globalità. Magari ci torneremo adesso dopo la pausa, ma non a caso, finisco, Io sono sempre stato propugnatore della cosiddetta dieta a diamante. La dieta deve essere come un diamante per tutta la vita. Per essere per tutta la vita deve essere accettata psicologicamente. Allora, diamanti a cuore denari, 800 24 00 24. Un po' sempre sotto i riflettori per tutta una serie di problemi. Vabbè. Se volete portarceli, noi siamo qua. GR. Ah sì sì, a tra poco. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Maccheroni, non fretti, distruggo Seneca. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, Maccheroni. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, la mostarda, o le latte. Roba sana, sostanziosa. Maccheroni, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccheroni. Io me ne mangio. Eccoci qua, insieme di nuovo a Tutto Food con Franco Confalonieri. Oggi cerchiamo di profilare la vostra dieta, il vostro stile alimentare in base alle vostre preferenze, al vostro tipo di vita, alla organizzazione della vostra giornata. Ma, come aveva anticipato Franco Confalonieri, ci ha raggiunto anche Maurizio da Milano. Ciao Maurizio. Ciao, campione olimpico di marcia ed esperto di fit walking, l'evoluzione sportiva e salutistica del cammino. Maurizio, posso dirla così? Ma la passi? Sì, di direi, più. Penso che sia in parte anche questo, forse qualcosa in più, perché c'è anche, diciamo, la parte un po' sportiva, senza eccedere, quindi la parte non agonistica, ma sicuramente che porta l'esercizio ad essere quel cosettina in più che solamente anche il camminare, magari in modo corretto, in modo adeguato, ma con quel pizzico di sprint in più che ci permette anche di ottenere qualche beneficio in più per la salute. Uno sprint che daremo naturalmente anche alla nostra giornata alimentare. Allora, consigli pratici da un grande atleta e da un grande medico che ha conquistato i nostri ascoltatori l'ultima volta quando è intervenuto dicendo: io mi sono messo in gioco, ho perso 12 kg, dottor Confalonieri, e l'ho fatto proprio partendo da scusa se ti interrompo, cerco di essere molto sintetico, ci sono tanti argomenti interessanti, da due regole base. Una l'ha accennata anche prima il professor Carruba, cioè la prima, alternare e variare il più possibile la tipologia degli alimenti, e la seconda, mangiare relativamente poco di tutto. Nel concreto, poi mi rifaccio proprio a quello straordinario pezzo di sordi che avete mandato, il maccherone o comunque la pasta, o meglio ancora un'alternanza di carboidrati di tipologia diversa, quindi pasta, pasta integrale, riso, riso basmati, farro, orzo e via dicendo, dovrebbero secondo me costituire la base del nostro pasto di mezzogiorno. Okay, questo perché prima ci dà energia per l'esercizio fisico, questo perché ci attiva il metabolismo e ci consente di consumare di più. Prima è importante mangiare, quindi scegliere tra colazione e metà mattina, l'italiano non è un popolo che ama sedersi a colazione, un'alternanza di proteine e carboidrati, quindi o il classico dolce o la classica crostata alla mattina con la frutta secca piuttosto che le proteine a metà mattina, o l'affettato a colazione, poi se ne parlerà credo, con un po' di carboidrati a mezzogiorno. E poi grande attenzione al pasto della sera, e cioè alla sera privilegiamo in modo totale, se non assoluto, le proteine. Evitiamo i carboidrati, purtroppo fanno parte della tradizione italiana, perché che possiamo ci si rilassa permetterceli, però a mezzogiorno. A mezzogiorno dobbiamo, secondo dobbiamo me. Vedi? E alterniamo proteine vegetali ed animali con tutte le tipologie. Questo è veramente importante. Non dobbiamo farci mancare nulla, possiamo naturalmente, diversificando nel corso della giornata, introdurre tutto quello che ci fa bene, che ci piace per stare bene. Maurizio, anche l'attività fisica è importante per produrre questo cambiamento, perché sia davvero salutare. Tu sei un campione. La scienza dell'alimentazione e della nutrizione adesso ha individuato dei momenti migliori della giornata in cui assumere gli alimenti. La mattina possiamo caricare di più e dobbiamo progressivamente alleggerire verso sera. Anche per l'attività fisica c'è un momento in cui rende di più? Ma ci sono tante teorie su questo. C'è chi sostiene che per avere degli effetti benefici sulla perdita di peso, stimolare il metabolismo al mattino prima di aver fatto colazione porti maggiori vantaggi nel bruciare i grassi. C'è chi dice che assolutamente no, bisogna prima alimentarsi e poi andare. Io credo che l'attività fisica, o meglio l'esercizio fisico, siano un tassello importantissimo comunque da inserire all'interno di quella che è, non più la dieta, perché a me è un nome che non è mai piaciuto, la strategia alimentare che si sceglie per poter ottenere quei risultati. Beh, perdita di peso sicuramente importante, ma io direi soprattutto la salute in senso generale, tutti quei benefici che ne derivano, soprattutto sull'aspetto metabolico, e quindi le grandi malattie che poi sono causa dei problemi dei nostri giorni nostri, le sindrome metaboliche in genere, malattie cronico-degenerative. L'esercizio fisico in questo permette di ottenere grandissimi risultati. È una mano santa. La prevenzione può essere molto gustosa e molto piacevole, senza restrizioni, ma andiamo ai nostri ascoltatori, così da poter suggerire a chi ci sta ascoltando dei consigli sempre più concreti e mirati. Marco dalla provincia di Torino e Fabio dalla provincia di Pisa. Andiamo dalla provincia di Torino. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, ciao, sono Marco Andreoli, chiamo da Boscanero Canavese, il Canavese. Bene. grazie per ospitarmi. Ma intanto vi saluto e, se me lo permetti, saluto Maurizio, perché Maurizio è stato il mio maestro di fit walking. Io sono l'istruttore di fit walking. È una carambata. Sì, infatti, non era voluto, cioè, senz'altro. Ma la mia esperienza è un'esperienza positiva, direi. Positiva senz'altro, sì, perché io ho sempre fatto attività fisica, ma prevalentemente attività anaerobica, perché insegno schermantica, quindi sono discipline di combattimento, e mi mancava un'attività aerobica, e quindi mi sono avvicinato con un certo metodo a una tecnica di cammino efficace, quale per esempio il fit walking. E poi con i primi contatti con un dietologo, perché avevo qualche chiletto in più, adesso mi sento bene, sto molto bene e mangio bene, perché in realtà, facendo una buona attività fisica, aerobica soprattutto, arrivo alla sera stanco, felice, ma mangio poco, ma quel poco che mangio lo mangio veramente con molto gusto, quindi sono felice. Grazie Marco, un'esperienza assolutamente positiva, ha combinato quello che il dottor Confalonieri è distratto dalle foto. No, assolutamente, perché vuole finire su Facebook, e faceva anche i sorrisini a Laura Vanassi. Ha detto due cose fondamentali, l'amico di Maurizio, cioè: mangio poco, perché alla fine la quantità rischia di diventare sempre un problema, ma mangio quello che mi piace e lo abbino con l'esercizio fisico. È una ricetta semplice, ma senz'altro efficace. Ma questo passo, perché sia efficace, Maurizio, riesci a spiegarcelo in una formula radiofonica? Perché poi abbiamo anche i mestieri, certo, del cibo, di cui vogliamo parlare. È abbastanza semplice, diciamo, perché la radice è la biomeccanica del nostro camminare normale, che diventa più decisa, più vigorosa, più intensa, quindi i movimenti assumono quella qualità maggiore, quindi supponiamo l'appoggio del piede è più deciso, quindi l'attacco, il momento in cui tocchiamo col piede il terreno di tacco, è decisamente con un angolo maggiore rispetto alla nostra camminata normale, quindi si può sviluppare al meglio quello che è tutto il movimento del piede, che poi è il grande motore del camminatore. Ed è una pompa straordinaria. Ed è anche un'ottima pompa. e di lì sfruttare tutto quello che è il passo di una camminata decisamente più dinamica. Diciamo che in termini di paragone si parla oltre i 6 km all'ora di camminata di tipo sportivo, quindi si entra nella logica del field walking. Non deve spaventare, i 6 km all'ora non sono una velocità così estrema, sono qualcosettina in più di quello che normalmente potremmo fare in una camminata ma normale. Maurizio, secondo te possiamo utilizzare anche questa tecnica per andare in ufficio? Quindi io cammino venendo in ufficio e mi faccio un 40-50 minuti, ma è una camminata che si può fare anche in città senza correre il rischio di essere scambiate per un tipo un po' originale e quindi far scattare un altro tipo di organizzazione? No, diciamo che sicuramente sì, il feedback poi io lo divido sempre tra nelle sue varie anime, quindi l'anima più normale, quella dello style della nostra vita quotidiana, che è una camminata appunto più decisa, più vigorosa, che si può fare in termini anche assolutamente normali, quindi camminando con le braccia distese lungo i fianchi a passo più deciso, più veloce, fino ad arrivare alla parte un po' più sportivo performante, che naturalmente comporta anche l'utilizzo del movimento delle braccia, in modo particolare braccia piegate al gomito, che aiutano quindi poi l'evolversi di una camminata anche su ritmi più spediti e su una connotazione che è un po' più sportiva, però direi che assolutamente lo si può fare, anzi è una buona abitudine. È una buona abitudine. Dottor Confalonieri, ultimi minuti, noi prendiamo appunti, lei ha già introdotto quelli che sono i parametri della dieta, che non ci piace chiamare così, del nostro stile alimentare. Poco di tutto senza eliminare nulla, concedendoci naturalmente, assecondando quelli che sono i nostri gusti, tenendo presente che la giornata non è tutto uguale, ci sono momenti della giornata in cui è bene introdurre alcuni nutrienti. Sì. Andiamo quindi non alla lista della spesa, ma al menù della giornata. Più sale. Eccola qua, gira, gira, gira, gira, gira. Velluto, deve essere velluto. Sì, chef. Va bene, continua, non ti fermare, eh? Sì, chef. Fammi vedere. Ecco, ci sono. Tutte della stessa misura, devi farle tutte della stessa misura, cazzo. Sì, chef. Come va qui? Quasi fatto. Okay, allora, bene. Iniziamo okay, dal sono. Mattino. Perché ogni tanto è bello. Camillano oggi hanno voluto un po' metterci alla prova. Volevamo vedere se lei era pronto. È pronto con la colazione? Sono pronto. Andiamo. Con la colazione. Quindi andrei sul latte, sullo yogurt, con i cereali o con i biscotti o con la crostatina come prima scelta. L'abbiniamo con il pane tostato, il pane integrale con l'affettato a metà mattina o viceversa. Affettato e uova a colazione, a questo punto l'abbiniamo col succo di frutta e il dolce sano, il biscotto sano a metà mattina. Pranzo di mezzogiorno, tassativamente carboidrati, abbinamento ideale, verdura cotta, predigerita, fonte di energia e gustosa per condire, per esempio d'estate, un'insalata di farro, di orzo, di pasta o di riso basmati. Assolutamente no. La solita insalata non attiva il metabolismo. E oltretutto con quello che usiamo per condirla spesso ci porta anche un apporto calorico elevato. Oltretutto se poi andiamo a camminare nel pomeriggio verso sera abbiamo una buona disponibilità di carboidrati. A cena, trucco soprattutto per i bambini, diamogli una merenda leggera, facciamogli arrivare a casa con appetito, gli prepariamo della verdura cruda, trovano solo quelle, magari l'accompagnano con della sana maionese, con dello sano ketchup o con del sano olio. È un modo per rendere gustosa anche la verdura cruda. Un dressing fatto con lo yogurt. Bravissimo, una tzatziki o queste salse. Dopodiché un'alternanza di proteine, assolutamente. Carne rossa spesso fa male, una volta alla settimana va benissimo, massimo due. Non vorrei che dopo chi arriverà mi colpevolizzi. Carne bianca, massimo una volta, pesce nelle sue diverse forme, cotto, filetto di tonno, filetto di sgombro, salmone in filetti o quant'altro, due o tre volte, e l'uovo una volta. Noi siamo a posto. Se facciamo questo possiamo tranquillamente sgarrare almeno un giorno alla settimana, possiamo concederci la frutta o il gelato alla frutta o il centrifugato o il concentrato lontano dai pasti e stiamo bene. Un'ultima avvertenza, con i bambini stiamo molto attenti a un'adeguata assunzione di proteine e soprattutto la sera. Lo stesso con l'anziano che torna bambino, è fondamentale per quest'età un'adeguata ristrutturazione del tessuto muscolare. Le proteine le utilizziamo soprattutto quando le introduciamo la sera, quindi bambini e anziani, evitate pane e pasta la sera, prendete proteine nella forma che preferite. Voilà. Allora, noi con un campione e con il dottor Franco Confalonieri vi abbiamo sistemato. Adesso sapete quanto dovete muovervi e che cosa dovete mangiare. Adesso andiamo a lavorare, Deborah. Direi, perché sì, qua bisogna anche portarla a casa la pagnotta, perché sennò hai voglia di mettere a tavola. Poi qualcuno li deve mettere a tavola naturalmente in maniera corretta. Non è che il cibo si materializza cucinato magari in maniera più semplice così sulle nostre tavole in termini... Bisogna esatto. Lavorare un po' come adesso i sette nani. Sono indecisa se capire, sono indecisa se quel brano che abbiamo sentito prima adesso da Milano ce lo rimandano meno, sì, così facciamo il cambio di ospite al nostro tavolo. Sì. Va, sentiamo. Tanto grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Più sale. Eccola qua, gira. Velluto, deve essere velluto. Sì, chef. Va bene, continua, non ti fermare, Sì, chef. Fammi vedere. Ecco, ci sono. Tutte della stessa misura, devi farle tutte della stessa misura, cazzo. Sì, chef. Come va qui? Quasi fatto. Ok, bene. Tutti osservino tutti, voglio il doppio di tutto, due di tutto. No, no, così, devi fare così. Forza, fallo addensare. Guarda, guarda sempre qui. E ora guardalo sempre fino alla fine. Sì, chef. Non lo molli finché non arriva al passo. Sì, chef. Sì, guardami. Sì? Sì, chef. Sei pronta? Sì, chef. Avanti, andiamo. Adam. Come va di fuori? Piatti bene, puliti. Bene. Antipasti finiti. Cambio al passo, andiamo! Allora, ci abbiamo scherzato, no, mi dovete scusare, ma io proprio con le cuffie sento malissimo, per cui chiedo un aiuto ai tecnici, perché più provate ad alzare, più si abbassa, cioè io non sento quasi nulla, detto questo. Fatti delle domande. Esatto, burdo, te l'ho già chiesto venerdì scorso. Intanto qua io posso dire, spogliatevi pure, perché abbiamo un po' di caldo abbiamo in questa caldo. Sala, esatto, ma... faremo allora affronteremo anche il tema della sudorazione. Però c'è già un tuo ospite che è pronto a slacciarsi la camicia è perché vorrà farci vedere i muscoli, non lo so, certo, mangerà le proteine. Esatto. Allora, ti ricordi 2 anni fa quando con Cuore Denari abbiamo affrontato nel nostro speciale appunto dedicato ad Expo tutto il nostro percorso sui nuovi mestieri del cibo? Sì, mi ricordo. Quanti bene. Quanti ne abbiamo scoperti di nuovi? Il food tracker, il bartender, no dai, il birrificio, sì, quello del dentifricio, il birrificio geotermico, perché il settore delle professioni legate al cibo era molto vivace, ma sta diventando sempre più vivace, non è che si siano calmate appunto le iniziative. E come annunciato venerdì scorso qui da Tutto Food, per quanto riguarda i denari, vogliamo approfondire proprio le tematiche del lavoro di nuovo, no? Per tante persone, in particolare in Italia il cibo è una passione e quindi tanti, magari anche chi sceglie o si trova costretto a reinventarsi per via della crisi economica, scelgono di trasformare questa passione in lavoro. A tanti le cose sono andate bene, ma non è poi un terreno su cui avventurarsi con leggerezza. Anche queste sono raccomandazioni che noi abbiamo dato frequentemente. La gamma di mestieri è molto ampia, la richiesta di figure professionali si è ampliata, da un lato è anche merito delle mode, della sovrasposizione mediatica nell'epoca dei reality, degli show cooking, già c'è un nostro ospite che annuisce, quindi vorrà commentare probabilmente tutto questo. E poi accanto al mondo tradizionale c'è un nuovo mondo che si è messo in moto, no? Con gli street food, i food delivery, non senza polemiche, il mondo dei produttori artigianali, i food blogger e molto altro ancora. Allora, qualcuno si può anche chiedere, ma non è che siamo in bolla? Non è che c'è un po' di esagerazione anche attorno a tutta questa effervescenza? Ne abbiamo parlato nel corso di una delle trasmissioni appunto dedicate al lavoro. In realtà gli esperti che erano intervenuti mi hanno detto no, non c'è nessuna bolla dei mestieri del cibo, c'è in realtà però un'asticella della qualità che si sta alzando. Sempre di più alzando. Allora io ringrazio per essere venuto a trovarci, perché dico meno male che lo saluto. Pensavo che mi dicessi che lo saluto finalmente. No. Meno male che si è tolto la camicia. Simon Paolo Buongiardino, presidente del CAPAC, Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano, vicepresidente dell'Unione del Commercio di Milano, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Sì, l'abbiamo fatto intervenire in questa giungla del nostro studio stamattina per vedere se siete resistenti a qualunque tipo di intemperie. Non ho problemi. Grazie. Poi vicino a lei c'è un altro ospite che saluto fra un attimo e poi, come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24 se ci volete raccontare se in qualche maniera avete intrapreso di recente una professione legata al mondo del food, come avete visto cambiare negli ultimi anni questo mercato, quali sono secondo voi i punti di forza, c'è qualcosa che vi preoccupa, delle criticità che state vivendo, raccontateci la vostra esperienza. Buongiardino, la prima cosa da fare è però il biglietto da visita del CAPAC. Come sempre noi per ospiti che magari è la prima volta che intervengono nel nostro programma, li facciamo raccontare, ci sembra carino anche per quello che riguarda voi. Il CAPAC è un istituto di formazione, è una fondazione costituita circa 60 anni fa. Il principale interlocutore è la Confcommercio, l'Unione Commercio di Milano, e quindi tutte le categorie di rappresentanza delle imprese. Questa è la forza del CAPAC, ma il CAPAC partecipa il Comune, la Regione, l'ex provincia, oggi città metropolitana ed altri soggetti. Eroga formazione da circa 60 anni, più di 60 anni, in Viale Murillo a Milano, ma abbiamo anche qualche... Siete vicini a noi, vicini al sole. Sì, esattamente, abbiamo anche altre sedi, anche in altre province lombarde, perché siamo di interesse regionale e abbiamo quindi l'abilitazione a livello regionale. Lavoriamo in stretto contatto con Regione Lombardia. Noi facciamo corsi, quelli classici, che sono quelli della formazione, dell'obbligo scolastico dopo le medie. Abbiamo i corsi triennali di abilitazione, non di diploma ma di abilitazione. Noi siamo un istituto di formazione, non una scuola, quindi siamo in ambito privato e non pubblico, e poi abbiamo il quarto anno di specializzazione e ci sarebbe la possibilità del quinto anno, che poi dà accesso all'università. Certo. Noi abbiamo mediamente 1000 frequentatori al giorno, una dimensione di 10.000 metri quadrati di aule e laboratori. Chissà con il cibo cosa non avrete fatto ultimamente per formare appunto questi nuovi talenti in questo settore così vivace negli ultimi anni, in particolar modo nel nostro paese, ma non solo, ma il tema adesso dopo la borsa che vorrei affrontare con lei è gli sbocchi professionali che oggi hanno queste figure appunto professionali che formate, perché il tema è capire se c'è automatismo, data la vivacità del settore, è così automatico che una persona che si accredita magari con un buon corso di formazione automaticamente riesca ad entrare in un'azienda, in un ristorante, in una pasticceria o in qualunque, o magari nelle macellerie di Falorni. Andrea Bencista Falorni, buongiorno. L'ospite che poi chiacchiererà con noi, con lui il mondo della proteina affrontiamo. Cosa certo, dice? Il muscolo. Allora, intanto ci fermiamo perché io devo anche raccontare cosa succede oggi in borsa dopo l'elezione attesa di Emmanuel Macron come nuovo presidente della Repubblica Francese. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Sto cercando lavoro. Ah, ecco, appena licenziato. Sto cercando. Cerco qualcosa di meglio. Lo sai preparare un red eye, signor? Come ti chiami? Brian Flanagan. No. Sfortunatamente non ne ho avuto il piacere finora. E che mi dici del vodka martini con una spruzzatina di Pernod? Che apprendo in fretta. Sei nella Upper East Side, la capitale mondiale in fatto di locali, il meglio del meglio. Pensi di potertela cavare, giovane Flanagan? Credo di essere all'altezza. Giovane Flanagan era Tom Cruise, così se ti fossi dimenticata di questo film, che era Cocktail nel 1988, già qualcuno stava cimentandosi, se ne fa il bartender, credo che fosse il suo mestiere. Perfetto, no? Quanto ecco, era avanti. Quanto era avanti e quanto era bello, ci si mantiene ancora. Allora, stamattina stiamo parlando qui a Tutto Food, naturalmente anche dei mestieri del cibo, di corsi di formazione professionale. È importante oggi prepararsi sempre meglio per affrontare il mercato del lavoro in ogni settore, ovviamente, questo in particolar modo. Allora, Simon Paolo Buongiardino ha la responsabilità appunto di questo ente, presidente del CAPAC, che con tutti i corsi di formazione che organizza negli ultimi anni credo che in questo settore ne abbia appunto fatti tanti, predisposti tanti, formato quante persone, avete anche delle statistiche in questo senso, difficile. Sono 1000 corsisti al giorno. 1000 corsisti al giorno. Moltiplichiamo. 60 anni. Ecco, esatto. 60 C'è ancora anni. Molta richiesta da parte dell'industria dell'agroalimentare, io la metto così in termini generici, di corsi di formazione che preparino adeguatamente le professionalità in questo campo? Sempre di più, sempre di più, perché la formazione è l'elemento oramai base, fondamentale per avviarsi al mondo del lavoro. Se senza una preparazione adeguata è ben difficile. Noi ci muoviamo proprio in questo settore. A me piace dire che noi siamo insieme una scuola e un'agenzia di collocamento, perché questo è il nostro obiettivo. Ed è siamo facilitati dall'appartenere al mondo delle imprese, Confcommercio col suo mondo delle imprese, che rivolgono a noi le richieste e noi cerchiamo di trovare per loro le risposte, formando i giovani rispetto ai bisogni che le aziende manifestano. Certo, allora qui abbiamo accanto a lei un giovane, un'azienda, per cui possiamo raccontare tutto questo argomento anche da un ulteriore punto di vista rispetto ai tanti che abbiamo affrontato questa mattina. Andrea Bencista Falorni, ben ritrovato. Buongiorno. Perché l'abbiamo già salutato prima. Titolare dell'antica macelleria Falorni, arriva dalla Toscana e quindi oggi cogliamo l'occasione non per fare pubblicità ad un'azienda, ma per farci raccontare come un'azienda vive anche questo tema, il tema della vivacità del settore food, visto certo in televisione, declinato in tantissime forme, e poi tutto anche il tema dell'alimentazione, Nicoletta, ma insomma per un'azienda che è un'antica macelleria, tu Andrea sei della settima generazione. Nona generazione. Nonna. No. Ti rendi conto? Ma tutto questo dibattito intorno all'alimentazione corretta, allo stile di vita alimentare corretto, voi come azienda che come dire, invece è leader in un settore così tradizionale, certo, per... Come io credo che in generale comunque sia una cosa molto, molto positiva, che ci sia molta più attenzione nel mondo del food in generale. Che porta sia una anche cosa... all'azienda naturalmente poi a modificare probabilmente modalità di produrre, certo, confezionare e distribuire i prodotti. E soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i canali distributivi e quelli della comunicazione, perché poi i nostri prodotti sono molto tradizionali, diciamo, noi abbiamo una caratteristica che è quella, diciamo, che negli anni ci ha... contraddistinto, è quella di avere appunto un prodotto molto tradizionale che è rimasto lo stesso nei secoli. La nostra azienda nasce nel 1806, quindi nel mondo magari della comunicazione, ecco, quello qualche differenza c'è. Credo in generale che comunque ci sia del nel senso che nonni e bisnonni insomma facevano il loro e la comunicazione, esatto, era il passaparola, sì, esatto, invece non usavano Twitter. Le giovani generazioni devono usare i social network per far parlare di sé, è inevitabile naturalmente, diciamo. Voi formate anche nuove leve, adesso Andrea tu sei molto giovane, però insomma magari ci sono anche giovani che vogliono avvicinarsi ad una professionalità di quel tipo, entrare in macelleria, sì, per esempio. Sì, ce ne sono, noi peraltro in questo senso collaboriamo con una realtà, quindi con una scuola professionale che si occupa di formazione per addetti nel mondo delle carni e dei salumi, e devo dire che l'esperienza è molto interessante per noi, ci fa molto piacere farlo. Peraltro parte integrante del progetto, che è un progetto patrocinato dalla regione, c'è anche uno stage formativo in azienda, che quindi creano il punto di contatto tra il mondo del lavoro e quello della formazione professionale, e quindi noi collaboriamo, ci mettiamo a disposizione anche per accogliere qualche giovane, insomma, che ha voglia di imparare, e devo dire con molto piacere, con molta soddisfazione da vari punti di vista. È importante perché si ha la possibilità di avere appunto un po', certo, di conoscere magari delle giovani persone che hanno voglia di imparare, e poi si crea un clima, devo dire, in azienda che insomma fa piacere, un po' di in generale, esatto, che è necessaria, sì, sì, a un settore così tradizionale come il vostro. Buongiardino, vedevo che alzava la mano, voleva, sì, intervenire, perché sì, perché è assolutamente vero, ma proprio gli enti formativi come il nostro, che ha anticipato le modalità pubbliche della scuola pubblica, che oggi prevede 200 ore di presenza in azienda. L'alternanza, noi lo facciamo, scuola lavoro, ecco, insomma, per noi il pane quotidiano. Noi lo facciamo da anni e con grande successo, alternanza scuola lavoro, siamo al 50%, non 200 ore, quindi è assolutamente molto avanti, con dei contratti già di apprendistato per i giovani durante l'attività formativa. Pensi che quest'anno noi avremo 250 giovani che si qualificheranno a giugno, di questi 54 hanno già un contratto di lavoro in tasca, grazie a questo accompagnamento presso le imprese, presso le aziende, che li hanno ricevuti in formazione e hanno detto fermati da noi, e fermati da noi. Guarda che hanno bella soddisfazione. Ma esatto, no, perché il tema che sollevavo prima della nostra pausa in realtà c'è ed esiste, perché c'è la percezione diffusa che non sempre facendo un corso di formazione il travaso in azienda sia automatico, e molti si approcciano invece proprio al mondo della formazione con questa idea: lo faccio così mi trovo nel posto di lavoro la mattina successiva al conseguimento appunto dell'attestato. In quali casi c'è questo automatismo, Bongiardino, in quali casi no? Perché comunque penso che un po' la qualità personale, la sua voce in capitolo ce l'abbia, no? Certamente sì, però devo dire che noi abbiamo degli indici di occupazione nei 12 mesi successivi alla qualifica dell'80-90%, e questo è molto alto. Dipende anche da come fai selezione, da come indirizzi i giovani al loro futuro. Per esempio, ci sono delle attività, il vecchio cameriere, oggi si chiama addetto di sala. L'addetto di sala non può più essere come una volta, perché oggi i ristoranti non sempre si possono permettere il sommelier, anzi raramente si possono permettere il sommelier. Allora la formazione degli addetti di sala deve comprendere la conoscenza del vino, perché se non c'è questa manca un pezzo nella possibilità di dare al cliente ciò che gli serve. E insomma, anche questo è un mondo che si adegua alle necessità dell'industria, dell'impresa, certo. No, Bongiardino, per cui anche per voi c'è la necessità di tenere costantemente monitorata l'evoluzione di questo mondo partecipando anche ad un evento di questo genere. Farete delle iniziative speciali, sì, qui a Tutto sì, Food? Sì, sì, sì, cominciamo questa sera una specie di festival della pizza e dura 3 giorni. Non capisco perché non ci abbia invitato, ma non lo so, non è molto carino da no, parte ma sua. Voleva farlo ora. Ah sì, adesso, sì. Era pronto, è un con po' timido. L'invito. Sì, sì, molto allora, timido. Intanto 800 24 00 24, noi continuiamo ovviamente a invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci un po' che cosa ne pensano. Generalmente quando parliamo di questi argomenti sono soprattutto le mamme e i papà preoccupati di trovare uno sbocco professionale ai figli ad interpellarci, ma il tema è anche capire che tipo di vocazione è necessario, esatto, avere per intraprendere un percorso professionale in questo campo. Perché? Magari qui chiedo un commento ad Andrea Bencistafalorni per capire che cosa ne pensa. Con tutta questa fibrillazione, show cooking, reality appunto in televisione e quindi questa vivacità nel settore del cibo, si pensa che è un settore che ti dà un'opportunità professionale così in automatico, anche se non hai particolare vocazione, passione e attitudine professionale. In realtà no, non e non è così neanche per chi ha un'azienda consolidata da un sacco di anni, no? In assoluto. Ecco. Questo è un po' quello che talvolta accade, è un po' il rischio che c'è, cioè si considera settore con cui dove ti butti che va bene, si insomma, può approcciare, esatto, anche con un po' di superficialità, invece non è così. Io penso appunto, io credo che la bolla che si è creata, sono d'accordo con te e con gli altri, anch'io sono convinto, insomma, questa attenzione che i riflettori dureranno nel tempo nei confronti del mondo del cibo. Quello che credo andrà a scomparire è proprio un po' la spontaneità, ecco, un po' di improvvisati. Esatto, io credo che appunto la cosa che dicevi tu prima, che l'asticella si sia alzata, si stia alzando. Anche perché il consumatore è più informato ed è più esigente. E si accorge laddove c'è superficialità. È il consumatore. Diciamo, bravo, sempre. È capitato a me, sono giudice. Andata a fare un sabato, non te l'avevo detto, no, un aperitivo su una parte di Naviglio e mi sono resa conto che questa coppia di osti da aperitivo non avevano assolutamente competenze né nel presentare il vino né alla temperatura in cui lo gestivano, e allora se me ne accorgo, cioè, e questo io sono un po' il parametro, no, della misurazione. No, vuol dire che comunque anche il consumatore ha bisogno di persone competenti, perché li sgama quelli improvvisati. Assolutamente. E io ti devo dire, ero un po' infastidita, certo, che no, il vino fosse servito a una temperatura non adeguata, che, certo, ci fosse il bicchiere, perché poi vai lì, ti siedi e comunque paghi questo servizio. No, anche e perché anche... è presentato in questo modo, poi magari un buon prodotto che arriva, esatto, da un'azienda top di gamma, sì, e allora poi ne va anche della reputazione. La somministrazione, diciamo, è un po' più quello che attrae un po' di più. Ma voi lo monitorate, per esempio, il punto finale su cui va a finire il vostro prodotto affinché, sì, venga presentato? Perché per noi è fondamentale, avendo un prodotto tradizionale, cercare di comunicarlo e anche magari di servirlo nella maniera adeguata. Mm-hmm. Quindi noi facciamo all'interno dell'azienda anche qualche corso di formazione per i nostri clienti che sono interessati, per capire, per approfondire, no, il tema dei salumi e delle carni, per capire come fare a... Che bel lo settore, sai che però, sì, noi dobbiamo andare meglio a sentire che è cosa succede tardi, sulle direi, strade. Anche, vedi che c'è la bella Valeria. Mi chiudono da lì. Le vogliamo dire che abbiamo finalmente Valeria. Valeria Bernardi finalmente si è degnata di venire a fare una trasferta con noi. Non si è fatta pregare. Ma se stai una regina con noi. Eccoci qua. Che poveretta, le sto non contestando continuamente come sento l'audio. Il traffico a tra poco. Cuore e denari. Occuperete del pesce! Squadra 4, arrosti! Squadra 5, alla griglia! Squadra 6, le salse! Tutti ai propri posti! Su, via, via, via! Ci vuole qualcuno che serva i tavoli. Chiedo scusa per l'attesa, ma siamo a corto di personale stasera. No, prego, faccia pure con comodo. Assicuratemi che quella bistecca sia tenera! Battila bene! Continua a battere! Continua a battere! Piano con quella sogliola alla maniera! E lo sale! Più burro! Usa solo formaggio di Molè! Mio nipote adora questo Ratatouille, film. E lo sai che io in francese non mi avventuro. Il topino. Speriamo che non ci siano nelle cucine italiane, perché sennò sarebbe un bel problema. Allora, Simon Paolo Buongiardino, presidente del CAPAC, stiamo parlando di corsi di formazione nel settore del food, della cucina, della ristorazione, tutto quello che si fa a Milano, Regione Lombardia, ma naturalmente grande vivacità in tutta Italia. Formarsi è importante sempre di più perché, lo dicevamo prima, anche il consumatore non viene più tanto a patti in questo settore, vuole la qualità totale, non solo di quello che mangia, ma anche di come viene servito, gestito e proposto. Allora, i corsi di formazione in questo settore che hanno avuto più successo, esiste anche in questo caso una classifica da poter fare? Sì, sì, certamente. Beh, devo dire innanzitutto la pasticceria con la cioccolateria, la gelateria. Poi l'arte bianca, cioè pane e pizza, perché la gente ha anche piacere di guardi fare... Guardi che è quasi mezzogiorno, abbia pietà. Vabbè, ma stiamo parlando di cibo, che devo fare? Bravo. E poi la cucina, naturalmente. Questi sono i più gettonati. Noi facciamo anche corsi non di formazione scolastica, di tipo scolastico, ma anche a pagamento, di chi desideri... iniziare, esatto. Oppure che anche... Allora, perché questo è il secondo tema. Uno è quello dell'alternanza scuola-lavoro, quindi gli stage che proponete appunto nelle aziende di ragazzi che vengono dal mondo della scuola, i corsi di formazione invece a pagamento, perché l'altro grande tema di dibattito l'ho sperimentato perché alcune mie amiche rimaste fuori dal mercato del lavoro in settori completamente diversi si sono volute cimentare pagando fior di quattrini a determinate accademie anche in Lombardia. L'idea, pagando questa cifra così importante, chissà con che biglietto da visita poi mi presento sul mercato del lavoro. Automatismo ovviamente zero, perché anche lì no, sono degli investimenti importanti che una persona, una famiglia deve fare. Buongiardino. Ma noi facciamo... non è una domanda di carattere polemico, è solamente puramente conoscitiva. Noi perché facciamo... se uno questo investimento vuol farlo... Noi facciamo dei corsi di formazione di 200 ore, quindi abbastanza contenute come dimensione. Devo dire che quando apriamo in rete le iscrizioni andiamo in overbooking molto velocemente, quindi alla fine ci siamo anche costretti a non soddisfare tutte le richieste. Siamo al doppio delle richieste, della possibilità di accettarle. Molto spesso ci sono persone che desiderano per se stesse migliorare le proprie capacità, altre invece che cercano o un'occupazione in proprio o di qualificarsi in qualche modo per affrontare il mondo del lavoro. Non è così semplice, ovviamente. Poi c'è tutto un altro mondo, che è quello della garanzia giovani. La garanzia giovani è fondamentale, riguarda gli under 29. La regione NEET. La regione Lombardia ha esaurito le risorse il mese scorso. Non che sia negativo, ma è la prima regione che ha esaurito le risorse, perché ha aperto. Ecco, pensate che noi abbiamo fatto 500 avviamenti al lavoro in questo senso in 2 anni. Quindi una dimensione molto importante con la garanzia giovani. Allora, intanto vi faccio sentire cosa vuole raccontarci Gianluca dalla provincia di Novara, poi ci mancano 3 minuti prima dei saluti, un ultimo commento con Andrea Bencistafalorni volevo fare sul tema dell'agricoltura di ritorno, anche in questo caso, sempre sulla scia un po' della... Certo. moda, passatemi il termine, c'è chi pensa che magari avendo un appezzamento di terreno lasciato dalla nonna possa mettersi a coltivare e risolvere lì tutti i suoi problemi di lavoro. Anche lì un po' di sana consapevolezza forse è necessario adottarla. Gianluca da Novara, buongiorno. Buongiorno Nicoletto, buongiorno Deborah. Un ristoratore, buongiorno. Ci racconti sì. Tutto un po' come vive? Sì, noi sono anni molto positivi. Intanto veniamo a livello... subito a cena da lei. Esatto, la dopo prima ci cosa, lascia Gianluca. Bene, noi siamo ristoratori, azienda agricola, produciamo tutto internamente, ma il problema, io già sono già intervenuto a questa trasmissione, il problema di fondo del nostro settore, e parlo anche a nome dei miei colleghi, non ci sono più ragazzi che vogliono fare questa attività. Quindi noi usiamo molto molti stagisti nel periodo estivo e li retribuiamo. Però il problema è che quando si trovano sul mondo del lavoro c'è da lavorare sabato e domenica. Purtroppo esatto. Nel nostro settore sono convinti che che il nostro lavoro sia quello televisivo. Che Gordon Ramsay lavori solamente, o Cracco che lavorino solamente da lunedì al venerdì. Gianluca, purtroppo devo salutarla, ma guarda, abbiamo capito perfettamente. D'altronde, quando l'ex ministro Fornero aveva parlato un po' di ragazzi sciusi, era stata travolta dalle polemiche. Magari l'esagerazione ovviamente anche lì non ci sta. Non sono tutti così, c'è chi pagherebbe lui per lavorare anche il sabato e la domenica per avere un'opportunità professionale, però poi ecco, la percezione che passa è questa. Andrea Bencistafalori, l'ultimo commento dedicato al tema dell'agricoltura di ritorno. Lo vivete anche voi, insomma, nella... Sì, questo è un trend che esiste, del quale sono molto, molto felice. Credo che il problema principale sia proprio quello di cui parlava l'ascoltatore prima, cioè che per quanto riguarda l'agricoltura è ancora più importante il fatto che c'è molto da sacrificarsi, è molto difficile, però io credo ci sia molte soddisfazioni. Le generalizzazioni come sempre non ci stanno, però insomma poi il ristoratore questa esperienza la vive. Abbiamo terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie. Noi torniamo domani, restiamo. No, io ti devo lasciare qua perché tu hai un grosso evento nutrizione qui oggi. Salute. Allora vado a lavorare io in bottega, va bene. Oggi preparo io Cuore e Denari per domani. A ci domani. Ritorniamo qua domani.